perso 100.000 lire e il cellulare, cazzo. Soprattutto nei cantieri così, capito, quando uno si cambia, sono gli armadietti, anche a Città Mercato, era un periodo, mia figlia mi diceva appunto che aprivano gli armadietti dei dipendenti e rubavano quanto c'erano, capito, rubavano tutto. Alla fine poi hanno messo le telecamere, la sicurezza fa un po' più di controllo e non sta succedendo più, ma c'era un periodo che appunto si buttavano queste cose. Fame, vedo lì, molta fame, molta disoccupazione, la gente invece di andare a raccogliere pietre preferisce andare a rubare quello che noi ci lavoriamo onestamente durante il giorno, capito? Avanti Giulio. Ok, sì, lo so, sono cose antipatiche, anche perché ti creano dei disguidi abbastanza seri, se vogliamo, incominciando ad esempio il giorno stesso che gli hanno rubato la borsa, mia figlia era impossibilitata di avere le chiavi, e allora cosa è successo? Ha dovuto intanto chiamare subito il guardatrici, perché per paura che magari quello gli portasse via anche la macchina, avendo le chiavi, vedo un macco come tira, non si sa mai, allora ha dovuto portare la macchina in un posto sicuro, lì nella piazza della forestale, dove tutto è tranquillo, lì è costruito, e intanto 80 euro subito di caro attrezzi. Adesso domani bisogna portare la macchina per cambiare tutta la serratura e poi anche la chiave dello sterzo, eccetera, insomma, e sono altri 200 euro. Non l'ha potuta fare subito per il semplice fatto che non ce l'avevano la serratura a Ford, siccome hanno a Ford Fiesta mia figlia, e allora ha dovuto aspettare che la ordinassero ed è arrivata. Infatti gli hanno dato l'appuntamento per domani e dunque un'altra giornata intera di lavoro che deve perdere, ecco, e si aggiunge alle spese. E poi tante altre cose che ha dovuto naturalmente sabbarcarsi per il semplice fatto che appunto gli ha creato problemi sia economici che di sguidi di lavoro e di tempo, eccetera, eccetera. Vabbè, per un po' di faccia, cosa vuoi che ti dica? Ah, la borsa, poi la borsetta, la bellissima borsetta che costava un mezzo di là, quella anche, è fallita anche quella, magari l'avrà buttata nel cassone della Mondezza, chi lo sa. Bisogna vedere, cosa vuoi che ti dica? Sono degli elementi questi che ci sono, avranno forse anche loro il diritto di vivere, però non possono vivere così facendo del male alla gente, assolutamente. Sarà drogato, sarà embriagone, sarà quello che sarà, non lo so, il fatto sta, ha creato problemi a mia figlia abbastanza, dai, a questo livello qua. Capito, riprendi. Ma io che l'hai rientrato, è entrato la Iana, no? Qualcuno l'ha fatto entrare. Ti spiego bene. Allora, questo è arrivato, dice, mi fate fare una telefonata? Adesso questa ragazza che c'era lì al banco poteva dire mi telefona lì, telefona, invece no, ha avuto la brillante idea, questa deficiente, di portarla dentro nella camera, nella stanza di mia figlia, nell'ufficio di mia figlia. E capita, in quel momento mia figlia era assente, era. Ma dico io, se c'è il telefono, per quale motivo l'hai fatto entrare nella stanza dell'ufficio di mia figlia? Siccome mia figlia è la coordinatrice lì, stava dando delle disposizioni alle ragazze lì, alle altre impiegate, e allora a questo punto si è trovato lui solo in questa stanza. Ha telefonato, non lo so se avrà telefonato realmente, il fatto sta, ha occhiato la borsetta, se l'ha messa sotto il giubbotto del partito, capito? Nessuno se ne era accorto. Subito un attimo prima è entrata mia figlia e si è resa conto che non stava la borsetta, capito? Perché? Perché era andata a prendere delle cose della borsetta, non lo so cosa, forse qualche caramella, non lo so. E fortunatamente aveva appena tolto i cellulari di mia figlia sono molto costosi perché sono dei computer, sono praticamente che servono anche per il lavoro, eccetera, eccetera. Fortunatamente pochi minuti prima l'aveva preso lei, perché gli serviva appunto il cellulare, se no anzi tre cellulari, gli sarebbero spariti anche quelli, capito qua? Chiara idea, cioè ti do la possibilità di chiedere una cortesia, ti do la possibilità di farla, e invece poi alla fine. sempre quello. Vabbè. E cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Va bene, va bene. E tutto lì, quindi stai lavorando a Olbia ancora? Lì nella zona appunto del campo, diciamo, là. In quelle traversine, oramai quello rione. Un rione grandissimo lì, via Barcellona, via Verona, via tutte quelle vie lì. Adesso sto lavorando ancora, io abito io Veneto, qui sono i punti più pericolosi dei Mandrini. I punti più pericolosi sono via Barcellona, via Vittorio Veneto, via della Terme. Lì non puoi fidare niente perché sei sui dubito braccato. Se non stai lavorando, guarda i cantieri lì, la roba è che c'è tu dove te la metti. Perché entrano, fanno finta di cercare qualche duro, il capo cantiere, roba del genere, come è successo a me 4 anni fa, hanno detto non c'è, ma l'altro non c'è. Ma chi pensava mai, guarda, che questo balengo andava a trovarti le tasche? Alle 5 sono andato a cambiarmi, tocco le tasche, cazzo, mi cavi porta a Puglia, comunque. Al mio collega ho detto, fammi cullare il telefono, te l'avevo per qualche volta rubato tutto. E il telefono era acceso, subito, allora ho dato il mio numero di telefono e l'ho fatto subito disattivare, capito? Però le 100.000 lire, un'altra roba, non sono stato capito. Sono andato a fare la denuncia. Devo venire i carabinieri prima, certo mi fa la pensione, guarda, allora, perché io carabinieri sono? Figurati, cazzo, con gli altri carabinieri, cazzo, volevano fare la denuncia, cazzo, che stavano guardando nelle telecamere, cazzo, la gente che passava, cazzo. E quello è successo anche a me una volta che ho perso la patente. E a me mi serve per viaggiare, per lavorare, quindi sono andato qua in caserma ai carabinieri, ho detto, fa la denuncia, ho smarrito la patente, dice, aspetti almeno 48 ore, ma io come vado a lavorare? Qui c'è da aspettare, c'è da stare 48 ore senza andare a lavorare. Ho detto, fatemi un furio, fatemi qualcosa. No, aspetti 48 ore, poi facciamo la denuncia e rilasciamo il furio. Allora sono sceso giù in questura, in via Pascoli, e ho trovato un amico, ho detto così e così, ma tu vieni e ti faccio fare subito la denuncia. E gli ho raccontato, ma ha detto, guarda, fanno sempre così, perché non ne hanno voglia, capito? O non c'è quello che fa la denuncia, o non ne hanno voglia, quindi rimandano alle 48 ore. Invece la denuncia bisogna farla subito, poi nel caso la ritrovi, la denuncia automaticamente va a decadere. Se non vieni, ce la porti, non annulliamo anche via computer, così non avviamo le ricerche, capito? Ho detto, mica sono io carabiniere, io sono venuto qua a fare la denuncia, aspetta voi a scrivere. Aspetta un attimo, allora ne è venuto un altro e me l'ha fatta qui la denuncia. Stanno lavorando, vado, senza accorgo, vado, vedi qua, vedi. Fanno bene che ogni tanto ne ammazzano uno, vedi. Gaies. Giulia, e tu, tutto bene, sì? Ti senti bene, in forma? Ti sei ripreso? Sì, grazie a Dio già mi sono ripreso bene, no? Non ci sono problemi. E vabbè, è stato un momento difficile, come succede un po' a tutte le persone in genere, dai, quasi a tutte. Va bene, comunque. No, mi sono ripreso anche chi li che avevo perso, quasi tutti, non tutti, comunque quasi tutti, ma quello è il minimo, anzi avrei preferito rimanere magro, interessante stare bene di salute e poi per il resto non ci sono problemi, capito, qua, niente di particolare. E sono 30, si lavora, si va avanti, si fa quel che si può, o meglio quello che esce, perché si sa, crisi ce n'è anche per me, un po' per tutti, e allora tiriamo avanti con la pressione e con l'arrotondamento che faccio del lavoro e via, e ciccia, e si campa, e così qua, ripeti. Via, non ce n'è per nessuno, no? Io devo ancora ultimare qua in questa stanza, ma con tutte le spese che ho avuto quest'anno ho lasciato un po' perdere, se no c'è da fare ancora quell'altro pezzo, quell'altra cosa, ma ho preso il tuo salotto nuovo e balle varie, e quindi poi da noi c'è una crisi totale, no? gli stipendi non stanno arrivando puntuali, non un sacco di problemi. E quindi si va avanti, piano piano, zoppicando, come tutti, però c'è veramente un casino nero da tutte le parti. Questa manovra è fatta, secondo me, scusate il termine, culo di scimmia, perché così sono andate a toccare cose nella quale, con la quale una persona sicuramente non avrà dei grandi risultati, ma andrà sicuramente a peggiorare. E quindi niente, non c'è niente da aggiungere, dobbiamo stringere i denti tutti e cercare di combattere questa grande crisi che ha colpito la Sardegna. È così qua, ma sai cosa dico, io tu sai, io ho già una certa età, sì, che tutto sommato praticamente sono nato in un'era dove allora la vita non brillava di certo, e allora devo dire che quelle abitudini mi sono rimaste, non è che ho mai strappato niente nella maniera più assoluta. Quello che ho fatto nel lavoro me lo sono saputo tenere e ho tirato avanti sino adesso, e spero di portare avanti ancora la famiglia finché potrò, naturalmente poi si vedrà. Quello lo saprà il destino come deve comportarsi nei miei confronti e nei confronti anche della mia famiglia. Tutto sommato qualcosa ci siamo fatti, diciamo che siamo tranquilli, ecco, posso solo dire così. Siamo tranquilli da quel punto di vista, poi si vedrà, poi la vita dà sempre il risultato finale, questo è ovvio, no? Va bene, vai tu. No, noi, guarda, crisi ce n'è, perché il nostro destino ora, in questo periodo che ripreso a quello che ho pensato, ho sentito dire, a Natale eravamo tutti a casa. Per fortuna c'è uscito questo lavoro a Olbia, purtroppo bisogna andare dove c'è il lavoro. Con i stipendi qua non ci possiamo lamentare, perché a noi ogni 15 qua l'ufficio è ridioso, non ho avuto problemi mai in 15 anni che lavoro con questa vita, non ho avuto mai problemi di soldi. Io ogni 15 vai ci sono i soldi. Il 15 di questa mese sono andato, ma sono tornato a letto, qua a quarta notte sono trovato soldi in più, l'ho chiamato perché un regalo che mi ha fatto l'impresa, e mi sono trovato con 200 euro in più, capito? Tutto lì tranquillo, si lavora e tiriamo all'annanza, capito? Tutto bene. Ma ci sono imprese sane che già girano, no vabbè, ma il nostro non è un problema di denaro, è un problema di regione, l'azienda in cui lavoro è capitale pubblico, quindi non è un problema di denaro, è un problema che c'è una sofferenza, sono delle grosse sofferenze, anche perché la regione non sta finanziando ciò che deve finanziare, sempre a goccia a goccia, capito? Adesso non so se l'avete sentito il giornale, la televisione ha detto che ricapitalizzavano la società e quindi con questi 150 milioni di euro che andranno a ricapitalizzare, credo e spero che si continuino a fare i lavori che abbiamo iniziato, perché ci sono lavori grossi da fare nel servizio idrico, quindi non si può lasciare la città e le città e i paesi così tutti insomma incasinati, capito Tony? Ecco perché, e quindi chiaramente zoppicando la regione zoppica la società e ci sono sempre ritardi. Io già da tantissimo tempo che lo stipendio non lo prendo più il 27, lo prendo sempre all'inizio del mese e a volte con molte mancanze eccetera, però cosa vuoi fare? A lavorare bisogna andare e bisogna soffrire, piano piano e sempre andando di Righido. Vai Giulio. Sì, in effetti è così, bisogna tirare avanti, sì, giovinci indubbiamente, questo è vero, però bisogna anche pensare alla gente che alle condizioni un pochino così, perché io sinceramente questo governo tecnico forse farà qualcosa, lasciamolo lavorare ancora, però mi sa per come si sta comportando adesso, sta solo mettendo tasse, aumentando e soprattutto se la sta prendendo a sfavore della classe povera, della classe operaia soprattutto. E io ancora non ho sentito un ragionamento che sia valido per la crescita del lavoro, dell'economia. Invece tutti i giorni sentiamo che anche ieri stavano parlando addirittura di 800.000 posti di lavoro che si perderanno nei prossimi giorni, ma non è così che la nazione bisogna risolverla, nella maniera più assoluta. Chi mantiene in piedi la nazione è indubbiamente il lavoro, sul mondo del lavoro. Se non c'è lavoro l'economia sarà sempre quella che sarà. È inutile stritolare sempre di più la gente con tasse, con regole assurde, perché secondo me ci sono delle regole assurde. Poi loro non danno il minimo segno di sofferenza nelle loro istituzioni, perché chi prende i soldi, anche se si riduce la pensione per dire di 1.000 euro l'anno, come loro hanno deciso, però ne prende 15-20.000 l'anno, non è che hai fatto un grossissimo sforzo, mentre invece soffre chi magari prende 500-600 euro di pensione e tu non gli dai per dire l'adeguamento. Insomma, questo è il discorso, capito? E la politica, io l'ho sempre detto, è la bestia nera dell'umanità, questo non ci sono dubbi, ma io parlo addirittura a livello mondiale. La politica è sempre stata e lo sarà sempre la bestia nera dell'umanità, soprattutto dell'umanità di medio-bassa, ecco, capito? Si conferma. È proprio così, caro Giulio. Però il problema è nato dal momento in cui abbiamo voluto il Berlusconi fuori dai piedi. Io penso che le cose potevano andare anche così sino a fine mandato. E poi si vedeva. Questo chiaramente, non essendo un politico, è un professore, mi pare universitario, è chiaro che deve far quadrare i conti. E quindi ragionano lo suo, quell'altro che non aveva bisogno di denaro, non aveva bisogno di cambiare niente, dice va bene così, lasciamo tutto così, qualche manovra interessante l'aveva fatta. Io non sono berlusconiano, non me la futti nuda, non appartengo a niente, prima qualcosa ho fatto quando ero più ragazzo, adesso non mi interessa più, tanto ho capito, e credo che l'abbiamo capito tutti gli italiani e tutti i sardi, che la politica è uguale per tutti, chiunque si sieda in poltrona. Non hai visto ieri a Mussolini cosa ha detto a Fini, che è la vergogna dello Stato italiano, che prende 650.000 euro all'anno, capito, seduto lì per dire due cazzate. Per dire, la seduta è tolta e la seduta si inizia, e votanti e non votanti. Ha detto chiaro e tondo, lì è la vergogna dello Stato italiano, gli ha detto. Sì, ma io ci aggiungo anche gli altri, che per me sono tutti la vergogna dello Stato italiano, dal momento che sono loro questi politici i primi che saltano da una sedia all'altra, perché l'ideale politico non lo conoscono proprio. Basta che un partito gli offra una sedia un pochino più comoda, allora loro sono prontissimi, fanno un balzo d'ansia che nemmeno un canguro riesce a fare così violento e così lungo, per spostarsi immediatamente da una sedia all'altra. Basta che gli si offra una sedia molto ma molto più comoda, ecco che loro sono già padronissimi del portafoglio praticamente, non dell'ideale politico. Loro scambiano il portafoglio con l'ideale politico, perché di ideale politico la maggior parte di questi uomini politici non ne hanno nella maniera più assoluta, se no sarebbero rimasti coerenti con le loro idee di iniziali per dire tutto quello che sei, di sinistra e di sinistra domani per dire del tuo partito. Non è che puoi passare così immediatamente dalla sinistra alla destra o viceversa solo perché quel partito o quella frangia di politici ti ha offerto per dire una posizione molto più comoda e naturalmente più redditizia. Ecco, io la penso anche in questo modo. Avanti, Tony. E il fatto che questa manovra che hanno fatto è tutto quanto sbagliato, è inutile che tu aumenti le tasse quando non c'è lavoro, eh. Addirittura ho fatto uno che va in pensione, fatto 42 anni di contributi, se non c'è lavoro dove lo ti vengo scritto? Loro se lo possono permettere, perché ha fatto quel figlio di puttana di cosa, vado, andato in pensione, vado, che prende 8.500 euro al mese, scarpi. E tu che stai lavorando, che devi lavorare, cavolo, finalmente 67 anni, sopra il ponte, come fai a lavorare? Che te lo faccio la vergogna, cavolo, è uno schifo, cavolo. Ha fatto bene, cavolo, con ditti, cavolo, un mondo di ladri, cavolo. L'Italia è sempre stata ladra. Non ha avuto mai passione a mettere in corso, in ultimo caso, le cose che devono fare, cavolo. A uno che lavora nell'edilizia, che lavora in campagna, a 67 anni, ora ci passa sopra il ponte, cavolo. È così, è già un miracolo se uno riesce ad arrivare a quell'età facendo questi lavori così usuranti, figurati un po' se uno si può completare la contribuzione per avere la pensione, ma è assurdo, soprattutto al giorno d'oggi, ragazzi, perché i ragazzi quando iniziano a lavorare hanno almeno 30 anni minimo, 35 anche, sicché raggiungere 43, a quanti anni vanno in pensione? 80 anni, ma non è possibile, no, sono dei sistemi assurdi proprio, mentre loro, per loro invece basta una legislatura per avere una pensione da lambabbo. Ecco qual è la situazione italiana e le condizioni che mettono questi politici a tutto il popolo, tutto lì, è assurdo veramente, ragazzi, ma cosa vuoi che ti dica? Sempre di qua. Ma poi la cosa che dà un po' più, sai, a noi, insomma io ne ho già 52, il problema è con uno stipendio normale, insomma, di 1.400 euro al mese, come fanno una persona a pagare tutte le cose che gli hanno inserito nuovamente? Cioè uno fa sacrifici a 50 anni, compra una casa in più per un capitale un domani e gliela tassano, e allora ecco lì che quello è già morto. Tutte le cose in più che ci sono, senza adeguamenti di stipendio, senza adeguamenti di niente. Poi, come ha detto Tonino, io sono di quella categoria e quindi come faccio a 67 anni andare a lavorare dove lavoro, che ci sono mille pericoli, mille cose, non credo che si possa andare a quei livelli. Capito? Se uno ha già maturato la pensione, ti ha già dato 35 anni di contributi e basta, è finito, deve andare in pensione con tutto quello che le spetta, non proroghe contro proroghe, 43 anni di contributi, ma via vai, cioè veramente. Una manovra che nessuno si aspettava, molte cose sbagliate secondo me, poi è chiaro che se quello che ci tocca, quello dobbiamo prendere, con la speranza, come hai detto tu Giulio, che Gesù Cristo ci lascia a goderci, perlomeno a me, a godermi la pensione a 67 anni, ma a questi livelli non credo proprio. Ciao! È molto difficile la situazione, oggigiorno la situazione economica italiana è molto ma molto difficile, no? Ma ce ne sono tante di cose, ad esempio io non vedo per quale motivo se il PDL, cioè Berlusconi, aveva tolto l'ICI dalla prima casa, una casa è un diritto della Costituzione italiana, uno la deve avere quasi per legge, non quasi, senza quasi, perché è un diritto dell'umanità. la prima casa, lasciamo stare la seconda, la terza, la quarta, o chi ne ha 200 di appartamenti, ma la prima casa non si deve toccare nella maniera più assoluta. E invece tu dici, no, ma abbiamo abbassato l'aliquota da 0,05 al 0,4, sì, però mi hai triplicato il valore catastale. Alla fine, quando facciamo i conti, se prima per dire il pagavo il 5%, tanto per fare un esempio, su 100.000 euro, era quello che era, ma se adesso tu me l'hai abbassato al 4% e però me lo fai pagare su 300.000, la cifra è più alta che devo pagare, sicché mi hai danneggiato tutto lo sommato, anche se mi hai dato per dire il valore al mio immobile in più. Però siccome io vivo per dire, io lo faccio un esempio, vivo per dire con una pensione da morti di fame, allora a questo punto qua tu mi stai penalizzando, mi stai sottraendo quei soldi che tu da quella pensione dall'elemosina che mi stai dando. Ecco, anche questo è un punto dolente dei pensionati, perché inizialmente nel nostro discorso io ho parlato che sono stati danneggiati i pensionati, soprattutto la gente povera, quelli che guadagnano poco, sono stati danneggiati, e questo non possono dire di no. Loro i soldi devono prendere da chi ce li ha, perché sono lì li puoi trovare, ma non chi vive la giornata, capito qua? Vive la giornata, hai detto bene. Chi vive la giornata, il problema è quello, perché l'adeguamento stipendi ancora non se ne parla. Ne avevamo solo accennato, ma se tu non adegui gli stipendi in base al tenore di vita che c'è, a tutto ciò che è tasse, eccetera, eccetera, è chiaro che le persone non ce la possono mai fare. Anche perché le banche oggi come oggi hanno stretto molto la morsa, e quindi non diranno più affidabilità se non hai garanzie, capito? Perciò ipoteca te la mettono anche sulla prima casa, nel caso tu non paghi le prime serrate lo fanno per fare disgiunzione, non fai disgiunzione, li fate in un pignoramento e te ne pignano pure al gas. Mentre prima queste cose non succedevano, perché come hai detto tu la prima casa era proprio una cosa intoccabile. Adesso tra Equitalia e banche non si sa più di che morte devi morire, capito? Devi stare molto ma molto attento, molto ma molto attento. Il mio correre al lavoro per un bollo non pagato di 177 euro, proprio una dimenticanza, si è visto arrivare dall'Equitalia il fermo amministrativo della macchina e non gli hanno creato un sacco di problemi, un sacco di problemi. Quindi dico, ma come si faccia? Non l'ho pagato, va bene, mi mandi una lettera, mi avvisi, guardi che nulla, non gli è mai arrivato niente, non si è visto solo arrivare il fermo amministrativo della macchina, quindi non poteva toccarla. E questo bollo di 177 euro mi pare che è arrivato a 1600 euro tiro. Quindi con molti sacrifici ha dovuto prima pagare il bollo, poi fare la cancellazione all'ACI, poi la cancellazione all'ufficio delle entrate, poi portare la ricevuta all'Equitalia, gli hanno sbloccato il fermo amministrativo, insomma ha perso più di un mese di travaglio, capito? Più di un mese di lavoro, se questa veramente è la legge italiana, fa schifo, completamente schifo. Sì, in effetti è così, sono dei problemi seri, sì, è vero, creano dei problemi soprattutto alla povera gente. Quando io tempo fa ho visto delle macchine pagate dagli italiani, io parlo di macchine delle amministrazioni, buttate a centinaia di macchine messe da una parte e soprattutto senza i bolli, senza le assicurazioni, senza niente, proprio in un cortile, adesso non mi ricordo in quale città era. Proprio abbandonate, macchine pagate dagli italiani, abbandonate, non sono state mai rottamate, non hanno mai dismesso la loro diciamo così funzionalità, e allora rimanevano in questo cortile tutte macchine senza assicurazione, senza corso, in un cortile degli italiani, perché anche se era in continente questo discorso, però di tutti gli italiani, questo bisogna tenerlo presente. a quelli non li cercano, a quelli non ne fanno niente, no, non vale niente della vita, magari con quel piccolo pastore che ha chiesto un finanziamento, che poi a un certo momento gli hai tagliato le quote latte, gli hai tagliato tutto, lo stai ammassando anche adesso con la peste suina, siccome quello non può far fronte alla tassa mensile o semestrale che sia quando chiedi un prestito così, allora tu a quello gli chiudi l'azienda, anzi addirittura gli sequestri anche la casa. Ma non è possibile, è assurdo, guarda, è veramente assurdo. Eppure si verificano giornalmente queste cose qua. Avanti, tu. A me non capo, non dovevo andare in pensione, cioè, non ci posso andare perché ho lavorato dopo 7 anni. Così, tanto per cambiare, no? Immagino, bella via. E di persone come te così, e ce ne sono tantissime, ce ne sono migliaia, ce ne sono di lavoratori in procinto di andare in pensione, e adesso con questo nuovo sistema pensionistico, ecco che ti hanno bruciato praticamente tanti anni della tua vita, tutto sommato, perché uno quando è impegnato nel mondo del lavoro significa praticamente danneggiarlo anche a livello di vita. Perché non è possibile, dopo che io ho fatto un mestiere usurante per tantissimi anni, 35 anni, per 37 anni, e tu adesso mi punti a 43 anni, ma è assurdo, non è possibile la città, a meno che non riescano a togliere queste regole per i lavori usuranti di un certo tipo, come può essere ad esempio fare l'intonaco come fai tu, perché mi rendo conto che stare in piedi sul ponte tutto il giorno non è una cosa bellissima, e soprattutto quando si lavora in facciata, al freddo, al caldo, insomma a tutte le condizioni climatiche che del momento, tutto lì, vai qua. Io mi metto a ridere perché, guarda, io quest'anno, proprio al 1° gennaio, 30 anni di contributi, compreso il militare e tutto, e quindi 5 anni, e praticamente potevo andare in pensione, e invece a 43 anni contributi, quindi immagino di Tony quanti ne ho ancora da soffrire, aggiungere 5 più altre 8, arrivare a 43, fatti un conto, secondo te io esagerò, ma guarda, non lo so che cosa devo decidere, perché io massimo proprio a 60 anni mollo tutto e me ne vado, ma frega niente, mi prenderò quella pensione che mi danno e basta, perché intanto non ce la faccio, non è un lavoro che io posso andare a fare sino a 67 anni, è un modo più assoluto, con tutta l'umidità che prendo tutti i giorni, sali, scendi, sotto, io scendo anche per le verifiche di salvatoi, di condotte varie, scendo anche a 10 metri sottoterra, quindi non si può, pertanto facciano quello che vogliono, io qua non ce la faccio più, mi riscatterò quei contributi che ho e me la vado in pensione, poi non so cosa ne salta fuori. Io qua sono 16 anni che lavoro, nel 58 ho fatto il colpo e devo lavorare ancora 17 anni, che ammazzano quelli che ho lavorato ancora, crescono di più, capito? Però loro hanno detto che si può lavorare anche ai 70 anni, ma dove lavoro a 70 anni? In ufficio puoi lavorare a 70 anni, che sei al palco, non fai un cazzo, non fai un poco movimento, ma uno che lavora nel colpo, il lavoro che faccio io, quando è tutto pesante, entro in acqua pesante, arrivo alla certa età, non farò mai più. Perché c'era un mio collega a 60 anni, a 62 anni, mi hanno dato il corso e stava con noi lavorando, ho detto, un giorno ero avanti, ho detto, non ce la faccio più, domani non ci vengo. Cosa hai fatto? Due settimane poi è morto, poverino. Ma che è una cosa assurda, Tony, è una cosa assurda dove non c'è dialogo, noi possiamo stare tutto il giorno parlando, non c'è dialogo, cioè non esiste, capito? Una persona dopo i 55 anni ha tutto il diritto, ha tutto, a 56 anni uno deve andare in pensione, perché ha tutto il diritto, ha lavorato una vita, hai capito? No? Io per 35 anni, a 56 anni io me ne posso andare in pensione, e 35 anni a te te li ho versati i contributi, la mia azienda te li ha versati i contributi. Quindi cosa mi continui a far lavorare per altre 10 anni? Ma non esiste, non esiste, capito? Non esiste, perché intanto la gente muore prima, ed è il discorso che hanno fatto loro. Noi portiamo le pensioni a 67 anni, voi che il 50% dei pensionati, di quelli che vanno in pensione, quanto possono durare? Hanno 67 anni, un acciacco qui, un acciacco là, tocchiamoci del male, ma più di chi se dai, a meno che non sei proprio una persona sanissima, sanissima, sanissima, ma come hai detto tu, tanti miei colleghi, ex ESAF, arrivati a 67 anni, si hanno goduto la pensione per un anno, due anni, e poi se ne sono andati, capito? Se ne sono andati, perché è normale, è la normalità della nostra vita, di tutto quello che abbiamo fatto in passato, che basta una minima cosa, un minimo danno fisico, che più di quell'età non duri, ripeto, a meno che non sei proprio sano, però ti ripeto ancora e ribadisco che più di quell'età non si può lavorare, che intanto non vi avrai, e questo è il coso che hanno fatto loro per poterci guadagnare. Aumentiamo l'età pensionabile in modo che più di quegli anni intanto il 50% delle persone muoiono e noi ci incassiamo la pensione, quindi recuperiamo soldi anche da lì. È tutto un gioco politico che hanno fatto, no? Io, dottor Soltri, quelli che fanno i lavori, certi lavori pesanti e pericolosi, magari che non ce la fanno più, non ci appara. Ho detto sempre, uno quando fa 55 anni in pensione, uno che lavora in edilizia, in campagna, il mestiere che fai tu, che vivi nell'umidità, a 55 anni quello che vedete pensionati, e fare un torneo di gioco, non faccio no, cosa ci fa? Io avrei voluto solo dare una bella passata del tecnico di Mussolini. Una bella passata di Mussolini, perché nel governo ce ne sono troppi, allora non si impiegano, non la toccano mai, se la prendono sempre contro i poveri, perché lui, io, mi affermavo, ritiro la mensilità 1700 euro, però loro che ritirano 35-45 mila euro al mese, e sono sempre pochi. Quando li guadagnano quei soldi? Non ce la faccio mai a guadagnarli. E loro ben puliti, macchine dello Stato, fanno il fatto che voglio. E lo mettono in culo sempre ai poveri. Sempre ai poveri. Dicono in culo sempre il povero. Allora, mi sa che la povertà è arrivata per tutti. Ma tu prendi a Giulio. Giulio ha lavorato. Quanti anni hai buttato dentro la tua falegnameria, Giulio? Quanti anni hai buttato? Quanti contributi hai pagato per far sì che lo Stato cioè ti desse a te quella minima pensione che ti ha dato? Perché è una minima pensione che ti ha dato. Quanti anni tu hai sudato lì dentro? Canto viva lo dai magnato. E quanto vernici mi hai respirato? Te lo dico subito, io faccio esattamente adesso a gennaio 43 anni di lavoro autonomo lì in falegnameria. Però c'è da aggiungere, siccome io ho incominciato a lavorare da ragazzino, che avevo appena 11 anni, ti puoi immaginare, andavo a scuola e al lavoro, e nonostante tutto ho studiato e mi sono diplomato geometra, anche se io non ho mai fatto l'esame di fatto, per il semplice fatto che allora, perché mio padre aveva problemi, aveva di invalidità e c'era bisogno di soldi a casa, e allora io ho dovuto continuare a lavorare, essendo il primogenito, appunto di una famiglia numerosa, 7 figli in tutto, ti puoi immaginare, e allora io ho dovuto continuare a lavorare per guadagnare subito dal primissimo momento. Cioè, infatti il conto, ne ho quasi 70 ad aprile, sono esattamente 59 anni di lavoro sulle mie spalle, e grazie a Dio me li sono portati sempre bene, ma ci sono quelle persone che hanno avuto dei problemi di salute, eccetera, che non hanno assolutamente potuto fare tutti questi anni di lavoro, e poi naturalmente i risultati si vedono, le condizioni di vita che uno può affrontare. Capito? È questo il discorso. Ripeto, io ho sulle mie spalle 59 anni di lavoro, tra lavoro dipendente e lavoro autonomo. Tantissimi anni allora, tu sai, si lavoravano, ti assicuravano, contributi non te ne mettevano, eccetera, eccetera. Se hai voluto, te ne hai dovuti fare, ecco qual è il discorso, per poter avere questo minimo di contributo che ti danno, ecco qual è il discorso. 43 anni ho sulle spalle di lavoro autonomo e sto ancora continuando, non so per quanto tempo, perché ti spiego. Qui a Sassari ci sono tre fornitori di legname, no? Ci sono. Adesso a fine anno ne chiudono due, siccome rimane solo uno, quello lì poi farà quello che vuole, con i prezzi li porterà sicuramente alle stelle, perché? Perché essendo solo dice intanto puoi comprare solo qua se vuoi continuare a lavorare. Diversamente non potrai lavorare senza il materiale. E sono queste le condizioni che ho qua. Riprendi. Oh, Claudio, un attimino, mi devo salutare un attimino, che devo dare un farmacia che mi stavo dimenticando per prendere le pastiglie, altrimenti non cazzo. Rientro più tardi in classe, ci siete. Aspetta un attimo, sono al telefono. Ok, d'accordo, ti ho sentito anch'io, Tony, d'accordo, ci sentiamo eventualmente durante la giornata, dai. Ciao Tony, alle prossime, grazie per questo. Guarda, va bene. Mi senti? 4 watt, 4 watt, non mi senti, vedi? Claudio? Non sono al telefono con Marco, siccome Don Giulio è a Sirico, ci ha salutato ma non l'abbiamo sentito, capito? Ah ok, sì, ma ti devo lasciare qua, dai, mia moglie mi ha chiamato e che gli occorre qualcosa e che devo dare una mano qua. Ci sentiamo stasera eventualmente qua. Grazie per questo, saluto a Marco, saluto a risentirci, ciao ciao qua. Ciao Giulio, ci sentiamo. Ciao Giulia, scusami, che mi ha chiamato Marco Scorpio, mi sentiva ma io non sentivo a lui e quindi ci siamo sentiti al telefono. Ciao Giulia, un abbraccio, grazie anche a Tonino e a tutti quelli che sono all'ascolto, rimango qua, ci sentiamo, ciao a tutti, buona giornata. Ok, ciao qua, nessun problema, figurati, caspettina, se c'era il telefono è chiaro che dovevi rispondere. Ci sentiamo, ciao, grazie anche a te per il consiglio, stasera eventualmente qua, ci sentiamo, ciao. Ah, Giulia, se coincide volentieri fare due chiacchiere con te, ciao ciao. Ok, ricambio il tutto al 100%, qua, non ci sono problemi, figurati.